sì, lo so che luce, luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Come stretta sta via, la gente non c'è capo, se fa la processione, che cammina piano piano. Non è morta nessuna, non ne osante nessuna, non si sente la voce e non suona la campana. E intanto corre aspetta che sarà buona fontana. E chiama in capo a creatura, e sarà buia sta luna con una funa, mamma purtroppo. Cielo che cielo non se fa mai scuro. pura sta via, perché non spunta mai, se perde l'interprete, niente carta ramugliata, sotto alle vere mura, casa rampa che giura, e gli stemma riuorna, e serate senza pane, e intanto core aspetta, sarà pane fontana. E chiama in capo e creatura, volesse ravogliasta luna con una fuma, e ma porta lontana, e ma porta lontana, a to cielo che cielo non se fa mai nessuna, volessa comanna per spremere l'unore in tasto sciuma amara che non conosce amara, perché amare è lontana pure sta vicino. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa, ci sono tutte le parole di chi è stato innamorato e non ha dimenticato tutto quello che c'è stato. Ed aspetterò il tramonto, deve pur passare il vento, io mi lascerò portare dove nascono le parole, cercherò le tue parole, te le voglio riportare. Non è giusto che una donna per paura di sbagliare non si possa innamorare, si deve accontentare di una storia sempre uguale, di una vita da sognare. Si riposa, ho incontrato tanta gente che in un mare di parole e fra tanta confusione spera ancora in un amore. Non è giusto che una donna per paura di sbagliare non si possa innamorare, si deve accontentare di una storia sempre uguale, di una vita da scordare. Se fosse una cosa semplice io te la direi, ma c'è una confusione dentro e qui attorno a me. Tu preferisci evitare e forse la colpa non è tua. Potrei tentare un'altra volta, ma non sono io che devi sentire. Piedi nudi camminiamo su vetri rotti e poi con mani sporche ci tocchiamo, ci feriamo fra di noi. Tutti i segnali sono guasti, pallidi spenti nel buio. Potrei tentare un'altra volta, ma non sono io che devi sentire. Ascolta il tuo cuore se batte, guarda dove corri e fermati. Ascolta il dolore del mondo, siamo persi per la via, orfani di vita. Sfidato il vento, urlato pagato e riscommesso dietro a questa mania che resta solo mia. Per amore hai mai corso senza fiato? Per amore perso e ricominciato, e devi dirlo adesso quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse al suo pittore. Per amore hai mai speso tutto quanto la ragione, il tuo orgoglio fino al pianto? Lo sai, stasera resto, non ho nessun pretesto, soltanto come se tutto questo amore annegasse me, già la sento. La sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo. Così son rimasto a pensare, ma la vita cos'è? Tutto niente, forse neanche un perché. Con le mani lei mi viene a cercare, mi stringe, lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Oh, forse colpa mia, oh, forse colpa tua, è così, son rimasto a guardare. Lo chiamano amore, una spina del cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore. Tu che non mi senti più, che non mi vedi più, avessi almeno il coraggio e la forza di dirti che sono con te. Più sentì in silenzio, se n'è andata a dormire, è già andata a dormire. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Dopo un giorno così, com'è dolce la sera stare qui con te. Questa notte verrà come un pegno d'amore. Dopo tanta aridità la tua acqua bagnerà la riva mia, si placherà. Ti cercavo da sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Sognavo i tuoi sapori camminando fianco ai muri. E adesso che mi stai vicina più che mai, io sfioro piano al buio il rosa caldo del mondo tuo. Mi dimentico gli inverni che ti trovi nei ritorni. Sempre, sempre, sempre, sempre. Istante vedrai, non potrà mai finire. Tanta gente intorno a me ed ognuno pensa a sé. Tu dove sei? Mi manchi, sai. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. La vita dura. Mia parola, c'è una promessa notte verrà come un pegno d'amore. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause you're my lady, and I'm your man. Whenever you reach for me, I'll do I'm far away, but never wonder where I am, 'cause I am always by your side. 'Cause you're my lady, and Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Ich liebe sie genau wie du. Lieben wir ohne sie kein Leben. Sie ist in mir, was ich auch tu. Sie gibt mir Halt und lässt mich schweben. Sie hilft mir alles zu verzeihen. Würde mich nicht ihr Trost befreien, wäre die Welt ein Irrtum. Ich lebe. Che ci invita. In ihr finde ich mich wieder. Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Ich liebe sie in Glück und Schmerz, wird sie zum Kennen fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Manchmal rührt sie mich zu Tränen. Vivo per lei dentro gli hotel, durch ein unbestimmtes Sehen. Vivo per lei nel vortice. Auch schwere Stunden, ich lebe.